Eccomi qui. Eccoci Enrico, Ciao, ciao ciao. caro. Senti, allora, io come ho fatto con gli altri, ti chiederei subito un bilancio dell'annata cinematografica. Dunque, non è stato un anno di quelli che entreranno, credo, nella storia del cinema, però sono le ultime parole famose del 2017, inizio 2018. Un anno nel quale Hollywood ormai mi sembra sempre più prigioniera dei piani marketing e dei bilanci di fine anno, per cui da lì non arrivano delle cose particolarmente interessanti. Siamo ormai abituati all'ennesimo reboot, all'ennesimo sequel, e quindi è un cinema davvero molto surgelato da un punto di vista delle idee. Gli incassi danno ragione a questa strategia dei manager di Hollywood. Secondo me ne soffre un po'. Per fortuna ogni tanto poi affiorano qua e là dei film cosiddetti indipendenti. Tra qualche giorno potremo vedere nelle sale un film visto a Venezia, che è Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che forse è uno dei film più belli dello scorso anno e visto che esce nel 2018 anche di quest'anno. Per quello che riguarda il cinema italiano ormai è prigioniero di una grande macchina delle fotocopie, come dico io, nel senso che si continuano a duplicare in 3, 4, 5, 6 copie dei dispositivi narrativi, perché non sono neanche così potenti, così forti, così raffinati, così curati. Basta semplicemente fare un po' di zapping televisivo nei giorni di queste feste e poi trovare dei vecchi film italiani, anche piccoli, come ambizione artistica, tra virgolette, sia ambizione che artistica, eppure ci si rende conto di quanto siano lavorati però quei film. C'è molta speranza per i nuovi film dei tre o quattro nomi importanti che arriveranno, no? Quindi aspettiamo con discreta e grande curiosità i nuovi film di Garrone, il nuovo film di Sorrentino. Arriva finalmente nelle sale il film di Guadagnino, che ormai sembra, no, una buona parte della critica italiana sembra pronta a una riabilitazione un po' tardiva, devo dire. Sì. Personalmente ho sempre considerato Guadagnino un regista notevolissimo, e non da ieri o dall'altro ieri, tanto che qualche anno fa noi abbiamo fatto delle scommesse sul cinema al Festival Venezia, diretto da Marco Müller. Ora pare che siamo tutti pronti ad applaudirlo e siamo pronti a issare la bandierina italiana, se mai dovesse, non dico vincere la statuetta all'Oscar, no, però portare a casa una riconoscibilità molto molto forte. Il cinema italiano mi sembra spiaggiato, mi sembra più che spiaggiato, forse incagliato in delle secche. Non so bene che cosa bisognerebbe fare, dire, per disincagliarlo e metterlo di nuovo in navigazione. Ho l'impressione che ci sono responsabilità profonde da parte dell'apparato cinema, e non penso al Ministero. Il Ministero ha fatto una legge, ci sarà più denaro, ora vedremo che cosa gli autori, i produttori, gli imprenditori, le persone che immaginano il cinema, cosa saranno in grado di fare con questa disponibilità finanziaria molto, molto più forte. Sì. Dovrebbero mettersi in discussione, però ci si guarda intorno a un tavolo, si guardano, perché io né te siamo a queste riunioni, e nessuno osa, no? Per cui ancora si agita il fantasma reale della pirateria, come se fosse quello soltanto il vero problema del cinema in generale, del cinema italiano in particolare. Non si fanno i conti con le serie e soprattutto con gli spettatori delle serie, che sono gli spettatori con i quali poi tutto il cinema, i registi, i produttori, gli sceneggiatori dovranno fare i conti fra qualche anno, perché gli spettatori, lo zoccolo duro sarà poi quello. Mi pare che si continui in fondo a sottovalutarlo, a non tenerne conto. Passiamo allora ai tuoi cinque. Sì, la mia cinquina. Allora, Naturalmente, come tutte le cinquine, le terzine, le quaterne, le tombole, qualcosa rimane fuori. Sì. Ne sono ovviamente consapevole. Allora, io nella cinquina metterei due film italiani. Sì. Il primo è Sicilian Ghost Story di Grassadonia e Piazza, che mi sembra un film, vabbè, senza che aggiunga. La mia cinquina, due titoli italiani, Sicilian Ghost Story di Grassadonia e Piazza e Aciambra di Cardignano. Sì. Per quello che riguarda i film non italiani, ci sono almeno tre titoli che mi sembrano importanti. Personal Shop di Assayas, The Square e Dunkirk. Questa è la cinquina. Ovviamente se ne potrebbero citare altri cinque, però terrei saldi anche in un'altra cinquina terrei fermi anche i due titoli italiani che ho citato. Ok, e se no, se vuoi spendere anche due parole su ogni film, tranquillamente. Vabbè, vedi tu allora. Sì, sì. Se non si allunga la cosa... Sì, tanto abbiamo fatto almeno 10 minuti a testa, per cui tranquillo. No, va bene, ok. Sicilian Ghost Story credo che sia uno dei film più importanti realizzati in Italia in questo anno. Non ha avuto una grande attenzione da parte degli spettatori, sta poi recuperando, dopo la piccola e la brevissima vita in sala, sta recuperando con un tour nelle scuole, all'interno delle carceri, per quello che riguarda l'Italia. Ed è però uno dei pochi film italiani davvero esportati in tutto il mondo, che ha una distribuzione regolare ed è stato accolto con intelligenza, mi pare, altrove è molto più appuntita di quello che almeno no, si è dimostrato in Italia. Sono Grassadonia e Piazza sono veramente due autori importanti sui quali puntare almeno per i prossimi anni. Aciambra, giustamente, anche se poi poteva essere un cavallo non destinato a entrare né nella short list né nella cinquina dell'Oscar per il miglior film straniero, però uno di quei film che riesce a coniugare una delle istanze forti e sane del cinema italiano degli ultimi anni, che è il cosiddetto cinema del reale, con la capacità poi da parte delle persone reali di raccontarsi, trasformare la loro vita e le loro esperienze quotidiane in un film, in un racconto, in una narrazione. Personal Shopper è un sottile, raffinato gioco cinefilo sui fantasmi, interpretato secondo me benissimo, e un film sui fantasmi non può che essere anche un film sul cinema, che fa una grande fatica anche quando fa gli horror a parlarci dei veri fantasmi che ci circondano e ci imprigionano. The Square è un film rivelazione, è un sì. Film che riesce a coniugare commedia con il cinema d'autore, quello più alto, in cui si ride e si riflette anche moltissimo. Ed è una riflessione che costringe gli spettatori a pensare e a porsi delle domande molto importanti, no? Che cos'è arte, che cosa non lo è, ma lo fa in una chiave molto lieve, molto immediata, non sofisticata e né però da rivista patinata d'arte. Dunkirk conferma ancora una volta che Nolan non è Kubrick, ma forse lui lo sa meglio di tutti noi, ed è colpa poi un po', credo, dei critici, dei giornalisti, no? Associarlo a un grande regista del passato prossimo. Secondo me è un film straordinario non solo perché ragiona sul tempo, ma ragiona sulla storia e non volendo fare un documentario, però ci porta dentro a uno snodo decisivo della storia, che sono poi giornate che ritornano anche in un film che vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nelle sale. L'abbiamo visto soltanto nei festival, finora è l'ora più buia, sì. Proprio perché nel momento in cui Churchill diventa a capo del governo, la questione Dunkirk, quello che sta accadendo a Dunkirk, lo diciamo per gli ascoltatori più giovani, è una di quelle pagine che se fosse andata diversamente, veramente probabilmente la storia della Seconda Guerra Mondiale, la storia della seconda metà del Novecento sarebbe diversa. Sì. Nolan ne fa un grande film epico e concreto. Sì, sì, sì. Senti Enrico, allora in chiusura ti chiedo, per chi ci ascolta chiaramente, dove sarà possibile leggerti ed ascoltarti? Certo, no, la cosa... Da qualche anno in qua sono passato alla cosiddetta critica orale, chiamiamola così. Sì. Quindi la possibilità è quello, avendo un po' di voglia, un po' di tempo, sì. Tutti i giorni, tranne il sabato, su Radio 3 va in onda Hollywood Party, che è un quotidiano che racconta il cinema e rifletta ad alta voce sul cinema, però senza perdersi nei meandri di una critica con la C maiuscola, sì. Tentando di raccontare i racconti che il cinema e i film ci propongono. Per quello che riguarda invece la fase scritta, abbandonata già da un po' di tempo, è puramente occasionale qua e là, ma è una cosa che in questo momento mi sembra meno interessante. Ok. Senti Enrico, allora auguri, buon 2018. Buon anno, ci vediamo presto alle proiezioni, perché sì. Ci tocca ridere Scott, mi pare capire. Sì. Un abbraccio, a presto. Bene, buon lavoro, ciao. Ciao.